sé yo, viene el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ecco, ci siamo, come da una settimana abbiamo annunciato, siamo finalmente all'interno della Fiera del Libro. Vi do anche l'indirizzo esatto: Padiglione 2, accanto alla Sala Blu. Vedrete, c'è una sorta di abitacolo verde pisello con il logo di Radio 24. Noi siamo qui, ci sono delle gagliarde prosperose ragazze, per modo di dire, con la maglietta rossa della passione. Ho scritto "La passione si sente", che questo aprirà ricordi e nostalgie nei nostri ascoltatori. Come avevo promesso, questa mattina vado veloce perché l'elefante si è dilungato oltremodo e quindi dobbiamo recuperare il tempo perduto. Andiamo all'argomento che da lungo tempo stiamo soffermandoci: la trasformazione, la mutazione della carne umana in letteratura. Ognuno di noi in realtà è un romanzo vivente, ognuno di noi ha una sua storia. Una storia, se ben raccontata, se qualcuno la sa raccontare o se noi la sappiamo porre nel momento giusto, è una storia che può lasciare una traccia nel racconto dell'umanità. Oggi ho due ospiti con due visioni contrapposte ma complementari, dell'idea che in fondo vale sempre la pena raccontare ciò che si osserva e vale sempre la pena di raccontarlo bene, raccontarlo profondamente attraverso due forme diverse di racconto. L'uno è il racconto può fare il giornalista in fondo viene considerato colui che sta al gradino più basso rispetto alla capacità narrativa epica e romanzesca della realtà, perché racconta la nuda cronaca, la cruda cronaca, ma in fondo i grandi passaggi alla letteratura altro non sono che osservazioni della cronaca del tempo in cui si produsse l'autore. L'altro è un filosofo e naturalmente ha una sua visione molto particolare, anche provocatoria, del rapporto tra realtà e finzione, soprattutto tra emotività, cioè tra ciò che ci suscita un racconto di cui sappiamo realmente le radici fittizie e un racconto della realtà. Molte volte noi ci commuoviamo per qualcosa che vediamo in televisione, una fiction, una telenovela, un film, un romanzo rosa, qualcosa che ci apre il cuore e ci fa commuovere, ma la stessa commozione non la proviamo per qualcosa che è crudamente interessa la carne di un nostro simile, o viceversa. Presento subito gli ospiti. Mario Calabresi, direttore della Stampa, buongiorno. Buongiorno. Anche il mio direttore, lo dico subito, se no subito mi scrivete, mi dite Lecchino, chiami il tuo direttore. Lo chiamo perché era fondamentale chiamarlo in questa occasione, mi fa piacere. Ha appena scritto un libro, appena pubblicato, per Mondadori, Strade Blu, La fortuna non esiste. L'altro ospite, Maurizio Ferraris, lo conoscete, è un professore che spesso è stato protagonista delle nostre ammissioni per la sua teoria sulla fidanzata automatica, che oggi ha un suo glorioso spin-off che è Piangere e ridere davvero, il feuilleton. Maurizio Ferraris, il melangolo editore. Maurizio Ferraris insegna filosofia teoretica all'Università di Torino. Iniziamo subito con Mario Calabresi. Il tuo libro è un tuo reportage dietro a Obama nell'iter che l'ha portato ad essere presidente degli Stati Uniti. Questo l'hanno fatto tanti giornalisti, ma tu hai affidato alla storia, attraverso i tuoi racconti e la tua osservazione proprio della carne umana che passava da un certo punto di vista a questa ascesa meravigliosa, fantastica, originale di questo personaggio diventato presidente degli Stati Uniti. Ma non dimentichiamo, è storia recentissima, quella che è probabilmente una delle crisi economiche che più ci affligge. Però il tuo libro inizia con un tono totalmente autobiografico. Tu in questo momento, Mario, non dovresti essere qui seduto a questo tavolo, non dovresti proprio esistere. Perché? Dovrei esistere perché 94 anni fa, in una mattina di gennaio del 1915, mia nonna, che è ancora tra noi, Maria Tessa, nacque assolutamente prematura di 6 mesi e mezzo, proprio qui a Torino, poco distante qui anche dal Lingotto. Nacque prematura per quello che era in un certo senso un aborto spontaneo, perché la madre cadde in casa e ebbe una grave emorragia e quindi ebbe questo parto spontaneo. Arrivò il medico in casa e constatò che la bambina era nata morta. L'avvolsero in una serie di federe di cuscino e la appoggiarono sopra un comò, in un angolo di un comò, aspettando che passasse, diciamo, il becchino per da seppellire. Da seppellire, sì. Tre ore dopo, nel pomeriggio, passò sotto casa, in via Piercarlo Boggio, un medico che aveva un baffi e pizzetto rosso, che era il medico di famiglia ed era un amico della mamma della mia nonna, quindi della mia bisnonna e anche della trisnonna. Abitava nello stesso palazzo. Passò e chiese alla portinaia: come va? Tutto bene? Gli disse: no, non sa cos'è successo. La signora Marietta ha perso la figlia. Il medico, anziché preoccuparsi della madre, disse subito: la figlia, perché era una femmina. Questo perché il medico aveva avuto tre figli maschi e aveva sempre desiderato una bambina ed era abbastanza fissato con le bambine. Sembrava un delitto una bambina morta in quel momento. Sì, per lui il fatto che fosse morta una bambina era una cosa terribile. Per cui lui chiede immediatamente: posso salire, posso andare a vedere? E lei dice: certo. Corre su per le scale, suona alla porta, arriva. No, non vi preoccupate, un telefonino, ma siamo in una fiera, quindi è normale che qualcuno abbia lasciato il telefono acceso, a noi non dà fastidio. Suona, entra in casa e senza quasi preoccuparsi della madre che era a letto, chiede: dov'è la bambina? Dov'è la bambina? Posso vederla? E gli fa, la madre gli fa cenno dal letto di questo specie di fagotto, di questo involto. Lui arriva, così me l'ha raccontato mia nonna e così si tramandava in famiglia, appoggia le palme delle mani sul marmo, poi apre questo fagottino e appoggia per fare una carezza una mano sulla pancia di questa bambina minuscola. Tutti pensavano un cadaverino. Di 6 mesi e mezzo. Poggiando la mano fredda, sente che invece la pelle è più calda e vede un movimento delle gambe. Allora la prende in mano e si rende conto che è viva, era da 3 ore abbandonata lì. E allora inizia a gridargli: ma siete disgraziati, ma questa bambina è viva. Inizia a scuoterla e, come preso da una febbre, da un sogno, si avventa sulla nonna, sulla mia bisnonna, sulla madre, e dice: Marietta, Marietta, mi dovete permettere di fare un esperimento, devo provare, la prendo, la porto a casa con me, costruirò una culla con la bambagia, col cotone, la metterò dentro, ci metto una lampada sopra giorno e notte, la tengo in cucina a temperatura costante. Era gennaio del 15. Quindi trasforma casa sua in un'incubatrice. Fa un'incubatrice, dice, gli daremo il latte col contagocce. La madre che... Per la madre non aveva, la figlia era morta, per cui gli fece un senno e gli dice: prendila. Lui la avvolse in uno scialle, corse fuori dalla casa e c'è questo racconto che la portinaia ripeté per molto tempo, che si girò mentre correva fuori con sta bambina e la portinaia non capì niente e gli disse: avvisi i becchini che non devono più venire. Corse fuori, se la portò a casa, la tenne per 3 mesi in questa specie di incubatrice e poi la fece crescere nella sua casa insieme alla bisnonna, perché la madre ci mise molto tempo a riprendersi da questa emorragia. E mia nonna tornò a casa che aveva 2 anni, facendo le scale, quelle stesse scale, camminando da sola, le volle fare da sola. E oggi è ancora qui. Io penso, lei mi ha sempre detto: vedi Mario, se non ci fosse stato un medico visionario, coraggioso, che aveva voglia di fare quello che tutti gli altri credevano impossibile, io non sarei qui, ma non ci saresti neanche tu. Infatti leggo la massima di tua nonna nel tuo libro: bisogna essere curiosi, ambiziosi e artefici del proprio destino. Tu a tua nonna hai riletto questo passaggio del libro? Mia nonna ho riletto in questi giorni, non stava molto bene, era a letto, le ho letto il libro, aveva gli occhi chiusi, ma a un certo punto li ha aperti e mi ha detto: no, c'è un errore, sei in tempo a correggerlo o è già stampato? Io dico: no, è già stampato, alla prima ristampa devi correggerlo. E dico: nonna, ma cos'è il problema, è così grosso? Tu hai scritto che il medico mi avvolge in una coperta. No, mi avvolse in uno scialle nero. Artefici del proprio destino fino in fondo. Maurizio Ferraris, un accanimento totale e radicale di questa signora che prendiamo come esempio iniziale della nostra chiacchierata a avere veridicità della propria biografia. Quindi per lei è importantissimo che ciò che rimane nella traccia del racconto dell'umanità di quella che è stata la sua vita sia fedele a quello che è stato veramente. Tu invece poni un paradosso: piangere e ridere davvero, come se il feuilleton in realtà fosse capace di istigarci a sentimenti, a commozioni, mentre storie come questa, che affondano le radici nella carne, nella realtà, probabilmente si ascoltano, ma non sentiamo questo trascinante, o forse in questo momento lo sto sentendo, chi ascolta dice: vabbè, ma ho passato anch'io cose peggiori. Qual è il rapporto fra emotività e realtà? Ma intanto, proprio in riferimento al racconto che abbiamo appena sentito, quello che traspariva da questo racconto è che doveva essere l'elaborazione di un racconto fatto tante volte in famiglia, era l'ultimo output di una saga familiare, lo si sentiva molto chiaramente anche nella scelta delle parole, questo. E quindi questo secondo me dava tutta una dignità letteraria a quello che è successo. Beh, vuoi mettere il punto di svolta secondo cui la famiglia poteva esistere o non esistere? Sì, infatti era un mito fondativo a tutti gli effetti. Lì c'era l'inizio, come la fondazione di Roma o di cosa partiva di lì. Allora, questo il punto che volevo sottolineare. Molto spesso noi ci commuoviamo per delle cose finte perché sono ben raccontate, e non ci commuoviamo per delle cose vere perché sono raccontate male. Questa è una terribile verità che poi, per esempio, anche il compito dello storico, del giornalista, del narratore in generale, è quello di essere capaci di dar voce ai fatti che accadono nel mondo e che, se non trovano una dignità letteraria, scompaiono nel nulla. È drammaticamente vero, a parte il fatto che ci sono intere guerre che non hanno avuto spazio nella storia del mondo perché non hanno avuto persone che le raccontassero, come anche certi conflitti in Africa di cui nulla si sa perché non se ne parla. Ma non è solo l'accesso all'informazione, è anche il fatto che ci sia una capacità di elaborazione che rende queste cose capaci di suscitare dei sentimenti. 800 24 00 24, il numero verde. Anche voi avrete sicuramente qualcosa della vostra vita, la vostra esistenza o di chi sta vicino che reputate indegnamente trattata dallo scorrere della storia. Beh, siamo qua in questo momento, trasformate la vostra carne in letteratura. Stiamo ad ascoltarvi. 800 24 00 24. Ecco, Mario Calabresi ha messo il punto, il nostro filosofo, su un aspetto doloroso. Viene da pensare che anche il racconto giornalistico della realtà costruisca realtà quando c'è una capacità, a volte anche malevola, di confezionare e raccontare bene alcune storie. Ad esempio, in questo libro tu racconti qualcosa che ci ha attraversato molto dolorosamente, ma non così profondamente quanto meriterebbe il fatto, che è la crisi. Tu hai seguito il presidente Obama, allo stesso tempo hai toccato alcune città, metropoli e province americane in cui era già percepibile quello che noi abbiamo visto soltanto in televisione. Ecco, perché non lo sentiamo così vicino? Leggendo le pagine del tuo libro a volte si rabbrividisce. C'è un racconto edulcorato, c'è un racconto sbagliato, o qualcuno ancora non ha veramente raccontato quello che sta succedendo? Da, intanto questo, io sono partito per fare un racconto del lungo viaggio che ho fatto seguendo Obama. Alla fine di Obama c'è una traccia sullo sfondo, però è quasi scomparso. Cioè, e quello che è accaduto davvero è stato invece qualcosa di completamente diverso, perché seguendo lui e sentendo le parole che si trovavano sui giornali e nelle televisioni, sia in America che quello che veniva riportato in Italia, erano parole che davano i contorni della crisi. Davano i numeri. Allora, quando si diceva, per esempio, un numero attuale, una casa su 9 negli Stati Uniti oggi è vuota, è abbandonata. Questo cosa significa? Una casa su 9. Ecco, io a un certo punto ho detto: sì, ma se io descrivo una casa su 9, sì, lascia, non serve. Per cui io a un certo punto mi sono messo in ognuno di questi luoghi che toccavo ad andare a vedere il dettaglio, quando tu dici la carne, a vedere, a toccare che cosa significava, a vedere quella casa, a scoprire che erano rimasti i cartoni della pizza, che mentre i genitori abbandonavano la casa una bambina aveva dimenticato una bambola in un angolo, che c'era ancora il ferro da stiro appoggiato sul tavolo da stiro che avevano lasciato lì, che era rimasto un diplomino di una scuola di ballo. Cioè, i dettagli di che cosa significava, che cosa è stata. Ho voluto fare un racconto di che cosa è stata la caduta, questa crisi profondissima americana, che è una crisi che ha dei contorni che secondo me in Europa non si sono sentiti davvero, per come sono stati forti. Però ho pensato che raccontare soltanto il crollo non fosse giusto, perché la caratteristica che ha portato all'elezione di Obama e come la caratteristica, il fenomeno di fondo di questa America, secondo me, è che nella difficoltà, nel rimettersi in discussione, perché si deve per forza rimettere in discussione, perché quando uno ha 12 carte di credito e a un certo punto è coperto di debiti, si deve rimettere in discussione e dire: beh, forse le devo togliere queste 12 carte di credito, forse devo cambiare modo di vivere. Però c'è lo sforzo, io racconto tutte storie in cui le persone fanno uno sforzo per reinventarsi, per cercare di rinascere. Non è che tocchi il fondo e torni, non è dalle stelle alle stalle ritorno, ma cerchi di trovare un nuovo equilibrio, nuove soluzioni creative, diverse, coraggiose, ma soprattutto ti rimetti in discussione. E questa è l'America che ha eletto Obama, che a un certo punto, dopo George Bush, si trova talmente impantanata in crisi che decide, scommetto su qualcosa di completamente nuovo. Ecco, Maurizio Ferraris, questo senso quasi filosofico di dire a un certo punto si può riazzerare e ricominciare, non può forse al carattere itinerante, transeunte, nomade, che è insito nella civilizzazione statunitense. Noi europei siamo più legati alla solidità e alla concretezza di ciò che abbiamo messo assieme e troviamo molta più difficoltà a fare questo passo. Da una parte sono convinto che difficilmente l'Europa si è mai trovata nella sua storia dal punto di vista delle sorti economiche nelle situazioni che appunto vengono descritte nelle crisi americane del 29 come nella crisi americana attuale, cioè anche... Però questa volta il libro di Calabrese è profetico, dovremmo leggere con grande attenzione e farne tesoro perché... Sì, no, ma io voglio dire, per esempio, anche in Germania la crisi che poi ha portato all'elezione di Hitler, ma comunque è stata una crisi che non era vissuta con la stessa drammaticità perché non c'era un capitalismo così aggressivo e uno stile di vita che appunto è disposto a vivere molto sul credito, ma queste sono cose che sappiamo tutti. Comunque sicuramente l'Italia non si trova esposta a una cosa di questo genere. I problemi dell'Italia casomai sono l'immobilismo, l'impossibilità di trasformare da una situazione all'altra, non quella di rimettere a posto le cose dopo una crisi. Quindi queste credo che siano in questa forma delle esperienze tipicamente americane, che però possono insegnare moltissimo anche all'Europa, proprio nella misura in cui siamo tutti abbastanza convinti del fatto che purtroppo non potremo più vivere in un mondo garantito, in assoluto, cioè non si darà mai più un caso di avere di fronte a sé delle vite già tracciate fino alla fine, in tutti i loro dettagli. E con questo da un punto sicurezza. Di vista può sembrare qualcosa che ci atterrisce, che ci spaventa, ma dall'altro punto di vista, almeno quello che si legge in sottotraccia nel libro di Mauro Calabresi, è la grande, meravigliosa gioia di dire si ricomincia, si cambia qualcosa, la vita può ricominciare. 800 24 00 24, stiamo parlando della trasformazione della realtà, anzi ancora più crudamente della nostra carne e letteratura. Lo stiamo facendo con Mario Calabresi, direttore della Stampa, autore della Fortuna non esiste, Strade blu, Mondadori, e Maurizio Ferraris, filosofo torinese, Piangere e ridere davvero, Feuilleton, editore Il Melangolo. Mario Calabresi, so che tu fra un po' devi andare perché c'è la riunione al giornale, quindi vediamo di dare qualche altro flash su quelle che sono le storie, o perlomeno i racconti scritti sulla carne, che ormai apparteranno alla letteratura molto più di quanto sia riuscito a farlo un telegiornale, la cronaca quotidiana. I famosi scatoloni dei dirigenti da Lehman, che abbiamo visto, sono diventati ormai un brand, un simbolo. Tutti hanno l'angoscia di questo scatolone. Tu li hai seguiti e hai visto i loro contenuti. Cosa c'era in questi scatoloni e quanto lo scatolone è diventato un elemento simbolico del mondo, può cambiare improvvisamente, perché cambia per disastri naturali, cambia per episodi tragici. La tua vita è segnata, è ben noto, da episodi sono passati alla storia. Ma anche la compattezza di un dirigente, come dicevi prima, che aveva una sfilza di carte di credito, case bellissime, automobili, possibilità di fare una vita meravigliosa, che improvvisamente da un giorno all'altro tutto era chiuso dentro uno scatolone. E si rende conto che la sua vita è in quello scatolone, un memento mori meraviglioso. Sì, io sono rimasto profondamente affascinato da questi scatoloni. Diciamo che qui ne ho seguiti tre, però praticamente ad ognuno dei manager che ho incontrato, gli uomini di borsa, da Bear Stearns a Lehman Brothers, che avevano perso il lavoro, chiedevo del loro scatolone. Alcuni ho voluto seguirli, andare a vederli, a guardarli cosa c'era dentro. E ho trovato che il mondo si divide in due. In quelli che nel momento del crollo e della crisi, in cui gli comunicano che è finita, che da domani mattina non si devono più presentare in ufficio, persone che guadagnavano centinaia di migliaia di dollari, che mandavano i figli a scuole costosissime, Di fronte al dramma, di fronte a questa caduta, reagiscono appunto in due modi. C'è chi immediatamente decide che bisogna fare pulizia della propria vita e ridurre tutto all'essenziale, ha una reazione di questo tipo. Uno di questi, un manager, gli disse: con cosa sei andato via? Mi sono portato via soltanto lo spazzolino da denti che avevo nel cassetto, tutto il resto non aveva più motivo di esistere. E anche perché tutto il resto, quello, il suo sapere era immateriale. E allora c'è un fatto che io racconto, che non era noto, che a Lehman Brothers, la mattina in cui dichiarano la bancarotta e si chiude, alle 11 del mattino i vertici di Lehman decidono di disattivare il server delle email, perché si rendono conto che tutti i dipendenti, tutti i manager, stanno mandando fuori su delle caselle di posta loro private i loro indirizzi, il loro sapere, il loro numero di telefono. E allora, ma non avevano degli hard disk portatili, le chiavette? Ma non gliel'avrebbero fatti portare fuori. Ah, non li facevano infilare niente. E quindi tutti mandavano fuori tutto quello che potevano. E infatti lui mi dice: la mia ricchezza era immateriale, io sono arrivato prestissimo in ufficio e ho mandato fuori tutto quello che dovevo mandare, su una mail fuori. E poi cosa mi restava da prendere? I libri, le carte, tutto il resto? No, ho abbandonato tutto, mi sono portato via lo spazzolino da denti. E c'è invece chi ha riempito scatoloni pesantissimi con le foto, con perfino gli snack che aveva nel cassetto, i cioccolatini, e il vaso dove teneva i fiori, e le cravatte, o per esempio, se era una donna, tutti i libri, i manuali, perché pensava che io devo portarmi dietro tutto, non posso perdere niente di questo. Per esempio, questa donna che lavorava a Bernstein, che ha fatto questi scatoloni pesantissimi, erano talmente pesanti che gliel'hanno dovuti spedire, non se li è potuti portare a casa da sola. Poi gli ho chiesto: ma che fine hanno fatto? No, sono ancora tutti accatastati lì a casa sua, a metà strada, tra il accanto al divano. E io gli dico: cosa fai? Non ho il coraggio di affrontarli, di aprirli, stanno lì a monito. Beh, dell'altra sono vita. Dei sepolcri di una vita, esatto. Chiaro, e non ho il coraggio di aprirli. Questo è, secondo te, Maurizio, direttamente proporzionale con il grado raggiunto in una situazione professionale, con la capacità di aver elaborato un pensiero? Cioè, più la persona è legata a beni materiali, a beni concreti, a piccoli supporti di memoria, maggiore e minore sarà stato l'impegno che poi o gli obiettivi che ha raggiunto nella sua professione, secondo te? Ma io sono convinto, è molto impressionante questa faccenda di che cosa ti lasci, ti porti dietro tutto quanto oppure ti porti dietro le tracce. Questa è la cosa essenziale, che comunque sono... Non è da tutti saper che ha delle tracce impalpabili, ma sì, concretamente però, esistenti. Però se uno pensa che in fondo c'è un'ironia in questo, la crisi di Lehman Brothers era dovuta al fatto che c'erano delle tracce a cui non corrispondeva niente. Delle finte tracce. C'era, e quindi a questo punto tu ti porti dietro tutte le tracce che sono il tuo essere professionale, come se nulla di sociale esistesse al di fuori del testo, delle tracce. E quando tu ti sei portato via tutto questo, non c'è nient'altro che possa scomparire. Altro è, come dire, le cose su cui puoi dare un valore affettivo. Ma per esempio, fra poco ci sarà la conferenza di Eck Carrier, dove si loda l'importanza del libro, il fatto che i libri non scompariranno, perché appunto i libri sono quell'idea del permanere di tracce che non sono soggette alle devastazioni tecnologiche, ai cambi tecnologici, eccetera. Però effettivamente per quegli scopi lì sicuramente le persone più razionali sono quelle che hanno mandato fuori. Fra l'altro è una prassi che sempre nelle aziende americane il funzionario, la prima cosa che si fa per il manager licenziato è disattivare il suo indirizzo di email, perché subito su quell'indirizzo che possono partire le ritorsioni, far partire delle informazioni rischiose per l'azienda e discorrendo. A questo punto abbiamo a che fare con qualcosa di puramente immateriale. La signora che si è mandato dietro gli scatoloni a casa è stata fortunata di avere ancora una casa, perché l'ironia sarebbe stata che si è fatta mandare a casa e nel frattempo ha perso la casa, quindi restano quelli scatoloni. Ancora presi, mancano soltanto 3 minuti alla fine della seconda parte, ce la fai a stare ancora 3 minuti? Poi ti lascio. C'è un'ultima storia che mi interessa, molto interessante e molto vicina comunque a immaginari che i miei ascoltatori conoscono. La storia della veterana che il giorno della commemorazione della guerra in Iraq va con dei caduti nella guerra in Iraq, nella campagna in Iraq, va con il presidente senza gambe. questa signora senza... Io vidi questa foto e mi impressionò tantissimo. Aveva qualcosa di vezzoso, di femminile, aveva un bel cappottino blu, me lo ricordo, delle belle scarpette, però leggo nel tuo libro che quelle scarpette erano disegnate sulle sue protesi. Sì, mi racconti questa storia? Questa diciamo che è stato l'incontro di cui io mi sono innamorato di più. Tammy Duckworth, che oggi... Pilota di elicotteri, la prima pilota di elicotteri americana di origine vietnamita, perché è nata in Vietnam, sì. Figlia di un marine e di una ragazza thailandese. Anche lei figlia di, sì, di tutto, con di passaggi pazzesca. Della storia. Sì, con il padre che prima era marine che combatteva e poi invece si mise a lavorare per l'ONU, per i rifugiati e cambiò vita completamente. Lei viene abbattuta con il suo elicottero e perde tutte e due le gambe. E la sua storia è la storia di questa donna che trova la forza di ricominciare completamente, di ricominciare ad andare sott'acqua, di ricominciare a volare, di ricominciare a nuotare. E quando io le ho chiesto, ma come mai ti sei rimessa a fare le immersioni con le bombole? E lei mi ha risposto, perché la gente fa le immersioni? Per divertimento. Ma io non ho diritto di divertirmi perché ho perso le gambe. E lei a un certo punto mi ha detto, non è che... Siccome un giorno c'è stato un ribelle iracheno fortunato, perché io andavo quasi a 300 all'ora col mio elicottero, 4 metri sopra gli alberi, e lui mi ha beccato al volo, lui ha avuto il suo giorno fortunato, ma io gli ho già concesso le mie gambe, non gli posso concedere anche il resto della mia vita, non gli posso concedere di impedirmi di andare al cinema, di mangiare una pizza o di passare una serata con mio marito. E quindi lei è un esempio veramente di questa forza, di questo coraggio. E tra l'altro la cosa curiosa, lei è molto amica di Obama, io l'ho incontrata a Chicago, e adesso è diventata vice ministro e si occupa dei veterani, dell'assistenza, della rinascita dei veterani. E ogni anno, nell'anniversario del suo abbattimento, lei mi ha detto, il primo anno sono stata in casa con le tende chiuse e ho pensato, che cosa faccio? Potrei stare tutto il giorno a piangere, sarebbe un mio diritto, sarebbe anche giusto. E invece ho detto no, invece siccome il destino voleva che tutti i piloti che vengono abbattuti, l'aereo cade e prende fuoco, e io ho sempre pensato che correvo il rischio di morire bruciata, invece sono ancora viva, sono qui, e allora tutti gli anni faccio una festa, faccio la festa del giorno in cui è cominciata la mia seconda vita. Grazie Mario Calabresi, grazie Maurizio Ferraris. Rieccoci 800 24 00 24. Non ho dato molto spazio alle telefonate, ma qui dalla Fiera del Libro di Torino mi piace guardare oltre il vetro le nostre meravigliose colleghe con la maglietta rossa della passione, che un presente riappare e ridà un lampo di passione al verde pisello del nostro stand. Venite, guardate, ci trovate accanto alla sala blu, è tutta una sorta di cromatismo. E poi siamo impregnati nel profumo del curry, non so perché, alla Fiera del Libro questa mattina c'è odore di curry. Maurizio Ferraris è con me, autore di Piangere e ridere davvero, Feuilleton, il melangolo, su cui entriamo adesso immerso, ma non prima di aver sentito una nostra ascoltatrice. Vediamo, è caduta anche la nostra ascoltatrice. C'è un certo padre Giulio da Roma, questo c'è? Sì, pronto? Sì, ah, ecco, scusi, ma lei capisce, abbiamo una postazione precaria, siamo quasi accampati, anche se meravigliosamente serviti, quindi adesso la vedo. Prego, andiamo avanti. Noi stiamo toccando un tema che... lei, padre Giulio, in quanto prete, sì? Sì, sì, ma sono anche un collega, sono anche un giornalista. Perfetto, perfetto. La trasformazione della carne in letteratura. Ma sì, sì, ma devo dire una cosa, sono rimasto molto, ma molto colpito dalla storia con cui avete aperto la trasmissione. La nonna di Calabresi. Eh sì, perché poi alla fine questa... nascita in condizioni estreme, no? fa riflettere, fa pensare su come poi in fondo un po' tutti quanti viviamo in una sorta di mondo capovolto, e mi ha colpito anche l'iter che era stato fatto successivamente riguardo al bisogno che c'è davvero in questo mondo villaggio globale dove tutto schizza via alla velocità della luce di raccontare le storie vere e non solo la fiction. E dico questo per esperienza personale, perché... E qual è il punto di differenza? Mi illumini veramente. Quando diciamo fiction è un termine ormai anche abusato, ma comunque è il racconto fittizio della realtà. le storie vere, la fiction ormai sono in aree liminari che sembrano quasi in una continua osmosi. La fiction si fa su storie già vite di papi, ad esempio, glielo dico molto, molto francamente, sono le fiction perlomeno più gettonate in Italia, vite reali che diventano racconto fittizio del reale. E allo stesso tempo totali finzioni, grandi casi giornalistici, storie inesistenti attraggono la nostra emotività come se fossero reali e vere. Ecco, come si capisce qual è il diabolico segno per cui il falso può essere individuato rispetto al vero? Guardi, in questi anni quello che ho tentato di fare è stato andare in giro per le Afriche come giornalista, anche come scrittore, cercando di raccontare quelle storie che solitamente rimangono nel cassetto, e questo mi ha fatto capire e comprendere come davvero, davvero sappiamo poco o niente di quello che succede nel cosiddetto mondo villaggio globale. E credo che la linea di demarcazione tra quella che è la fiction, o comunque la storia inventata, chiamiamola così, e la realtà soprattutto nei retroscena. Il retroscena della realtà, quella che uno vede per esempio andando in giro, non so, in Sierra Leone, nel Nord Uganda, beh, ci sono gli interessi per esempio del dio quattrino, del dio denaro, il fatto che con grande spregiudicatezza si arriva ad immolare gente innocente, soprattutto i baby soldiers, i bambini soldato sull'altare dell'egoismo umano, cioè a significare che la realtà, quella in cui noi viviamo immersi da mattina a sera, è una realtà dove gli interessi di parte, l'abbiamo visto anche in occasione di questa recente crisi finanziaria, crisi dei mercati. Sì, ne abbiamo parlato fino adesso. Poi lei mi conferma allora, quindi, padre Giulio, che alla fine per avere la possibilità, gli strumenti per raccontare in maniera... uso un termine che forse non proprio, ma mi piace, in maniera epica, quindi degna di essere raccontata, quindi scritta con parole indelebili, la storia dell'umanità, la realtà, occorre avere un contatto diretto con la carne in cui questa storia è scritta. Non si può immaginare, io sono un grande estimatore delle protesi elettroniche, delle distanze colmate da strumenti meravigliosi che ci avvicinano a ogni realtà, ma nulla sostituisce il concreto rapporto con chi questa storia la vive di persona. Perfettamente d'accordo. Riguardo, se me lo consente, sì. Riguardo c'è un aspetto che solitamente viene messo un po' da parte, cioè il fatto che comunque oggi l'informazione ha bisogno della narrativa, ha bisogno della letteratura. Mi sembra che questo sia un aspetto che va sottolineato. Trova in questo in me un fautore fanatico quasi. Sono convinto che anche per scrivere 10 agenzie impastate insieme occorra un'ispirazione poetica, perché ciò abbia un senso. Maurizio Ferraris, però nel tuo libro tu dici qualcosa che sembra mettere in contraddizione, o perlomeno ci fa pensare su quello che noi diciamo. Perché noi consideriamo lacrime vere quelle versate al funerale di Diana Spencer e lacrime fittizie quelle che noi versiamo sul destino tragico di Anna Karenina? Infatti questo secondo me è un paradosso che non ha ragione di porsi. La mia idea su questo è semplicemente che è vero, la distinzione realtà-finzione è molto importante da un punto di vista giuridico, per esempio. Se uno ha scritto un romanzo in cui si uccide qualcuno e se qualcuno ha ucciso qualcuno, evidentemente queste due cose sono molto rilevantemente diverse. Però per quanto riguarda il tipo di sentimenti, tra l'avere dei sentimenti per qualcosa che accade davvero di fronte a noi e avere dei sentimenti per qualcosa che stiamo guardando alla televisione o stiamo leggendo in un romanzo, non è che questi sentimenti per il fatto che si riferiscono a dei personaggi fittizi sono dei sentimenti fittizi. Questo senz'altro no, nel senso che, anzi, se ci sono dei casi, e sono molto banali, in cui se noi sapessimo che quello che stiamo vedendo e che ci commuove in realtà è autentico, invece che essere commossi saremmo orripilati. Per esempio, se noi siamo a teatro, vediamo Amleto e c'è Ofelia che si annega, a un certo punto uno ci dice: guarda che non era un attore che si annegava, l'attrice è annegata davvero. A questo punto tutta la nostra commozione per questa scena si trasformerebbe in orrore. Ma ciò vale anche per sensazioni più basse, perché ci si attizza con la pornografia, ad esempio, che è finta. è la stessa ragione. No, ma infatti, fra l'altro, questo è uno degli elementi più forti rispetto al dire che i sentimenti letterari e fittizi non sono dei sentimenti autentici. La pornografia non avrebbe ragione di esistere. Assolutamente, è una pantomima miserrima di persone, eppure è un mercato fiorentissimo. E d'altra parte, spesso lo si fa per la tragedia, si dice, ma chi piange per una tragedia al cinema non piange davvero. Allora immaginiamo il caso di uno che rida per una barzelletta. Non è che quando ti hanno raccontato una barzelletta dice io vorrei sapere se il fatto narrato è vero perché io rido soltanto di cose vere. Sarebbe assurdo. Poi a me fanno ridere le barzellette di cui già conosco il finale. E poi comunque le barzellette sono tipicamente il caso di un riso autentico, perché è indubbio che si ride davvero alle barzellette su cose del tutto fittizie. Quindi è strano questo tipo di partage. E per tornare a Diana Spencer, c'è il fatto di dire, qualcuno dice, ma come, tu piangi per Anna Karenina e non piangi davvero? Però tutte quelle milioni di persone che piangevano per Diana Spencer, per loro era qualcosa come Anna Karenina, non avevano nessun tipo di nozione diretta, quindi stavano piangendo per quello che era un fatto tragico occorso di una persona reale, ma che per loro era puramente fortunato che la possibilità di lambire il mito ancora da vivo, essendo una storia vera, ma mitizzata per il resto dell'umanità. Grazie Ferraris, grazie ai nostri ascoltatori, ricordo che domani siamo nuovamente qui dalla Fiera del Libro di Torino, vi aspettiamo nel nostro meraviglioso stand Verde Pisellino. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.